tempo solo, ma sempre più giù. Siamo tornati in studio, benvenuti a Dedicato, benvenuti, bentornati, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Lei è l'invitata MMMTTTTT. Cioè, l'invitata? L'imitata. Cioè, l'invitata è quella che beve vino, l'imitata è quella che imita qualcuno, poi che cosa? Lei è l'inviata MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM staff di Dedicato. Bentornati in studio. Ciao. Mamma, questo ci ha perforato il tipo. Ok, già troppo, chiudo la puntata qua a questo punto. No, vabbè, dai. E senta, mascotte, la smetta. Ah, lei e le sue amiche. Allora, ragazze, siamo al nuovo anno. Cominciate la scuola? Sì. Che troppo. No, non voglio. Ma come? Non siete felici? No. Ah no, non siete felici. Ma no, come mai? Oh santa mia. Io vado in quinta per fortuna, loro due vanno in prima media. Quindi abbiamo due fanciulle che fanno un passaggio. Ah, io no. Siete felici di questo passaggio? No. Ma perché? Perché no? Cosa perché vi spaventa? Paura. Ma che cosa vi spaventa? Nuovi compagni a parte l'inviata Ah, ecco, quindi c'è l'MMMMTTTT e a scuola con te, insomma. Ok, e anche l'altra però che rimane in quinta, quindi anche non, essendo pur migliore amica, comunque purtroppo non sarà a scuola con voi. Va bene, e dove siete state quest'estate, fanciulle? I nostri ascoltatori, a secondo me... In montagna! No, mi faccia finire una frase, mascotte. A mare, in montagna, a casalicchio! Ci sono gli ascoltatori che secondo me vogliono sapere cosa abbiamo fatto quest'estate noi dello staff di Dedicato, perché... Dica, cosa ha fatto lei? Sono andata al mare... Dove? Sono andata al mare a Malaga, a Granada, Ronda e Marbella. Ah. E poi sono in Spagna. Ignorante. Così per dire. E poi sono a Vidiciatico. Lei dove è stata, mascotte? A Vidiciatico. E basta? E al mare. Dove? Riccione. E poi, non è vero, poi? Siamo stati lì a febbraio. Sì, febbraio, era febbraio, d'estate. Poi siamo state... A Sorrento. A Croazia. In Croazia, in Calabria. Poi siamo stati a Palestrina. Dove poi siamo Palestrina? Ma dai, mascotte, vicino a Roma. Poi siamo state a Chiumi. No, a Chiumi non ci siamo stati. Senta, lei invece dove è stata? Al mare in Veneto dai miei nonni, a Rovigo. Ah, meraviglia. E poi? E poi a Vidiciatico. Ah, Vidiciatico, punto fisso per tutti, insomma. Un pezzo di cuore. Vidiciatico è un ridente paesino dell'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Bologna, subito sotto al Corno alle Scale. E che sia così tanto chiara. Certo che sono già chiara, perché... Essendo un ridente paesino, volevo dire che qui ci sono un sacco di realtà che organizzano un sacco di cose, tipo la Proloco, fanno un sacco di cose belle. To Nirvana, bentornati in studio. Lo staff di Dedicato sta ancora parlando del nostro fantastico ridente paesino che è appunto Vidiciatico. Cosa fanno? Cosa dai? Fanno cosa? In questo posto, in questo Vidiciatico. Facciamo tante feste, come la più importante che è Giugence la Campana, che ci sono quattro squadre, ovviamente i più belli, i più bravi di tutti, i Vidiciatico, il Vidiciatico soprannominati Magalini. Poi il Lizzano, che fanno abbastanza schifo, soprannominati Lizzanesi. Lei è del Vidiciatico, ovviamente. Ovvio. E poi quelli del Villaggio Europa, la torre, che quelli guardano, si possono manco vedere in faccia. E poi ecco, quelli che fanno pena a tutti, ovvero il Monte Acuto, perché... Ok, e cosa fate in questa festa? Cioè, è a metà agosto, giusto? A Ferragosto? Sì, il giorno prima. Cosa fate? Cosa succede in questa festa? Allora, in questa festa facciamo molti giochi, come per esempio la corsa dei sacchi dei bambini, oppure il tiro alla fune dei più grandi, il palo della cuccagna, che lo fanno, diciamo, gli scalatori esperti. Cioè sono giochi antichi, giochi di una volta, bellissimi. Oppure anche il gioco delle mele, eccetera. Eccetera. E poi se due squadre alla fine dei giochi fanno gli stessi punti, tipo 25-25, si fanno dei giochi o il sacco, la gara, la corsa dei sacchi, o tira alla fune, altri giochi, credo. Ok, e quindi vince chi vince questi giochi? Sì, esatto. Ok, e il Vidiciatico vince di solito? Fa un po' fatica anche l'anno scorso. Per esempio eravamo pari 25-25, solo che Lizzano sapeva già l'ultimo gioco finale nel caso avessimo pareggiato, quindi sapeva già chi scegliere come persone. Ai ai ai, erano avvantaggiati quindi. Molto avvantaggiati, noi invece non sapevamo una mazza, quindi abbiamo scelto le persone, solo che già una persona aveva male a un ginocchio. Poi una era piccola. Poi una era abbastanza piccolina. E niente, quindi basta. Vabbè, così. Noi... Ma non importa vincere, ma partecipare a questi giochi. Sì, ma almeno noi ci rifacciamo. Poi c'è Bimbolandia. Sì. Ah, ok, quindi la Proloco di Vidiciatico organizza altre cose. Poi c'è anche un'altra festa che è una delle più belle, però la prima ovviamente è Giugence la Campana, che è la festa del borgo. Che sì, anche lì ci sono dei giochi, ovvero il gioco della botte, che consiste centrare con una pallina tipo da tennis un buco. C'è una vasca con l'acqua abbastanza fredda. Appena fanno centro, cade un ragazzo nella vasca e si fa il bagno. Poveretto. Allora, la festa del borgo è una festa, si chiama così perché c'è un borgo a Vidiciatico. Sì, sì, fa appunto al borgo. Grazie ragazze. Ciao. Ciao. Bentornati. future that I can see. It's just my fantasy. Can't Be Now, Man at Work. Dopo aver ascoltato questo brano e le voci delle nostre fanciulle che ci hanno parlato di Vidiciatico, appunto questo paesino dell'Appennino tosco-emiliano, vi dico un paio di cose, poi andiamo ad ascoltare anche una voce amica del nostro staff che ci racconta un po' più dall'interno che cosa succede in questo fantastico paese. Perché è fantastico? Perché, come dicevo prima con le bimbe, è da riqualificare questo territorio, ragazzi. Inutile che ci scherziamo e ridiamo sopra su ste robe. Sono territori meravigliosi che abbiamo in regione e che purtroppo pian pianino vengono sempre più abbandonati dagli autoctoni, cioè le persone si spostano più verso la città, più verso altri territori, perché le possibilità che ci sono, come ben sappiamo, sia di lavoro che di opportunità nei paesi piccoli e magari anche lontani dalla città, perché non parliamo di Casalecchio o Zola Predosa che sono a un tiro di schioppo, parliamo di paesini che comunque ci vuole un'ora e un quarto, un'ora e mezza per arrivarci, non sono possibilità uguali o simili a quelle che si trovano più verso la città, quindi le persone si spostano. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono paesi questi che vivono molto sul turismo, sia invernale che estivo, ma anche che hanno bisogno di un aiuto da parte delle istituzioni e delle realtà che vivono il territorio, e purtroppo questa cosa, come ben sappiamo, è sempre complicata. Quindi cosa succede? Succede che c'è una proloco molto forte, come dicevamo e come andremo ad ascoltare anche con Simona, che è consigliera della Proloco, che lavora tantissimo sul territorio, ma i mezzi sono quelli che sono, insomma, fino a un certo punto ci si può arrivare e poi dovrebbero subentrare istituzioni che aiutano questi percorsi. Abbiamo anche, oltre alla Proloco, altri gruppi e altre associazioni del territorio che lavorano molto bene. Per esempio c'è un cinema a Vidiciatico, che è il cinema La Pergola, che fino all'anno scorso era sostenuto anche finanziariamente dal prete del territorio, che io ci tengo a ricordare perché Don Giacomo era un prete diverso, era un prete speciale, e quindi al di là del credo non credo, lui era una persona che valeva parecchio. E quindi lo ricordiamo col cuore, anche perché onestamente è un pezzo della mia vita, quindi non voglio critiche, non voglio giudizi da questo punto di vista, e non me ne frega neanche niente delle critiche, dei giudizi che qualcuno potrebbe fare, perché io guardo alla persona e a quello che ha fatto in questo caso, e quindi grazie veramente. Purtroppo Don Giacomo non c'è più, e quindi il cinema La Pergola, che era sostenuto da lui, adesso ha un gruppo di volontari che si sta facendo un gran mazzo, e questo bisogna dirlo, per tenerlo vivo, e lo tiene vivo anche attraverso laboratori, attraverso incontri, attraverso concerti, spettacoli. Quindi insomma diciamo che i gruppi volontari che lavorano sul territorio ci sono, ma se non vengono aiutati questo potrebbe essere un problema. Allora, eccoci qua con Simona, che è della Proloco di Vidiciatico. Sei una consigliera, ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, ci racconti un po' di questa Proloco, che ha una veste giovane da quello che so, io vi conosco, quindi inutile negarlo, e so che c'è stato un po' un rinnovamento di questa Proloco negli ultimi anni e adesso è super popolata da volontari giovani e volenterosi, fate un sacco di cose. Che cosa state facendo in questo periodo, insomma, in questi ultimi anni, da quando anche tu fai parte della Proloco? Allora sì, noi siamo un gruppo di giovani volontari, ci siamo insediati un anno fa, quando c'è stato il rinnovo del consiglio. Siamo 50% che praticamente abbiamo le seconde case oppure veniamo da fuori e ci siamo innamorati di questi posti, e l'altro 50% sono i ragazzi, i giovani che risiedono qua. È chiaro che abbiamo cercato di portare avanti quello che già avevano fatto, come noi li chiamiamo amabilmente, i vecchietti della Proloco, quindi tutte le feste già in calendario e cercando appunto di magari mettere dentro anche qualche festa nuova. Chiaro che loro ci avevano già lasciato un buon punto di partenza da cui partire, e adesso noi stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo per attirare sempre più turisti in queste bellissime, stupende montagne. Quindi veniteci tutti a trovare, che abbiamo un bellissimo cartellone di manifestazioni e di feste. E queste feste vanno anche sull'autunno e inverno o vi concentrate più sull'estate e la primavera? Allora, è chiaro che le feste più grandi sono concentrate nei mesi di luglio e agosto, anche se quest'anno per la prima volta giugno è stato molto ricco di manifestazioni, sia organizzate da noi che organizzate anche da varie associazioni del territorio insieme al comune. D'inverno facciamo qualcosa durante le vacanze di Natale, perché aprono gli impianti sciistici e quindi la gente comincia a venire in vacanza, a farsi il Natale o il Capodanno qui. Quindi abbiamo fatto la festa dello sciatore con vin brûlé e castagne per tutti, abbiamo fatto una festa per i bimbi, insomma cerchiamo di animare un po' il paese, soprattutto durante le vacanze di Natale. E la Proloco, da quello che so io, è un punto di riferimento un po' per tutta la cittadinanza del territorio, per i turisti, e quindi va a coprire, diciamo, un'ampissima fascia d'età, cioè dai bambini agli anziani, e anche ascolta le esigenze del territorio, perché appunto chi vive qua, come si sa benissimo, nei paesi piccoli e nei territori così vasti come quello della provincia di Porretta Terme, Lizzano, e siamo in un comune che comunque è vastissimo, enorme e ha tante richieste, ma la popolazione tutto l'anno che vive qua, proprio i residenti, non sono tantissimi, quindi la Proloco diventa punto di riferimento anche per tutte quelle esigenze che hanno le persone che stanno qui. Sì, beh, quello sicuramente. È chiaro che il comune, noi siamo a Vidiciatico, ci troviamo nel comune di Lizzano in Belvedere, che come estensione è uno dei comuni forse più estesi d'Italia, non vorrei dire una bestialità, ma quasi. Ed è un territorio che ha tantissime peculiarità e tantissime caratteristiche. È chiaro che i residenti in questo territorio sono sempre meno, purtroppo, per tutti i motivi che sappiamo: lo spopolamento della montagna, la mancanza di lavoro, la mancanza di servizi. E quindi è chiaro che un'associazione come la nostra diventa anche un po' il punto di riferimento magari per le richieste dei residenti. Abbiamo cercato di fare qualcosa anche per loro, ecco, abbiamo sistemato per esempio la piazza con delle piante nuove, abbiamo piantato un abete che è diventato da quest'anno il nuovo albero di Natale che adoberemo tutti gli anni, aiutiamo il comune a mettere le luminarie, ad addobbare il comune appunto per le vacanze di Natale, soprattutto con l'allestimento del mitico borgo di Babbo Natale. Noi abbiamo il paese che ha un bellissimo borghetto storico dove tutti gli anni lo addobbiamo e facciamo veramente un borgo dove tutti gli anni il proprio Babbo Natale in persona, ragazzi, e qua non si scherza. Chiaro che sì, un'associazione come la nostra diventa anche un po' un punto di riferimento per i residenti, soprattutto appunto per animare il paese, ecco, perché la gente non deve andare via, deve continuare a vivere qui in questi bellissimi posti, e anzi la nostra speranza è che sempre più gente torni in queste belle montagne e ci aiuti e ci dia una mano a far rivivere queste realtà. Sì, è una questione di cultura e di tradizioni, quindi direi che ci possiamo salutare. Grazie Simona. Ma niente, grazie a voi di avermi ascoltato, e vi aspetto tutti a Vidiciatico e alle nostre feste che noi organizziamo sempre con grande gioia e speriamo, insomma, spero di avervi trasmesso un po' di entusiasmo per il nostro territorio che è veramente bellissimo sia d'estate che d'inverno. Veniteci a trovare. Sentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko. Ormai siamo tornati. Ciao! Ciao! Buon anno scolastico, ragazze! No. Ciao! Che gioia, so con...